TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Ricco, cacciatore, psicopatico, l'identikit del triestino che avrebbe preso parte ad uno dei cosiddetti safari di Sarajevo. La descrizione contenuta nell'esposto dello scrittore Gavazzeni, che ha portato all'apertura da parte della Procura di Milano di un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Un protocollo per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti degli appalti pubblici, a siglarlo unitariamente CGL, CISL e UIL. Lovovia di Trieste in commissione trasparenza del Consiglio Comunale, obiettivo far luce sulla clausola sospensiva del capitolato d'appalto per un'opera che finora è costata 1,5 milioni di euro. A Pordenone è in corso dall'alba una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato che mira a smantellare una gang attiva nello spaccio di hashish e cocaina. Si tratta di un gruppo di giovani di diversa nazionalità tra i 18 e i 25 anni. Ancora polemiche sui trasferimenti dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone. Al centro delle tensioni il trasloco dell'ostetricia, reparto già in sofferenza dopo l'accorpamento dei punti nascita. Immatricolazioni in aumento del 13% all'Università di Trieste, crescono anche le iscrizioni delle studentesse, in particolare, e questo è il dato positivo, nelle materie scientifiche. Ancora un cordiale buongiorno da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo in studio per questa seconda edizione del nostro giornale radio. Torniamo ad occuparci della ghiacciante vicenda dei safari a Sarajevo, che era stata denunciata in un libro, I bastardi di Sarajevo, pubblicato nel 2014 e ripubblicato 4 anni dopo, scritto da Luca Leone, giornalista e scrittore. Anche l'allora SISMI, l'ex Servizio Segreto Italiano per le Informazioni e la Sicurezza Militare, avrebbe scoperto che quei viaggi turistici dell'orrore, dei cosiddetti cecchini del weekend, partivano da Trieste e sarebbero riusciti a bloccarli. Ricco, influente nella comunità, cacciatore e psicopatico, è l'identikit del triestino che avrebbe preso parte ad uno dei cosiddetti safari di Sarajevo, dal titolo del docufilm di Miran Zupančić del 2022. Una caccia all'uomo sui civili nella parte libera della città assediata, sparando dalle postazioni dell'esercito della Repubblica Srpska. La descrizione è contenuta nell'esposto dello scrittore Ezio Gavazzeni, che ha portato all'apertura da parte della Procura di Milano di un'inchiesta a carico di ignoti per omicidio volontario aggravato dalla crudeltà e dai motivi abietti. Nell'esposto si fa riferimento ad una testimonianza che parla di un uomo di Torino, uno di Milano e uno di Trieste. Gavazzeni riporta il testo di una lettera di Edin Subašić, ex ufficiale dell'intelligence militare bosniaca. Lei ha descritto bene il profilo del cacciatore cecchino, scrive, un cacciatore appassionato che ha già provato tutti i tipi di safari classici legali e poi per il bisogno di adrenalina cerca anche una testa umana come trofeo, una persona che ama le armi ed è allo stesso tempo un tipo psicopatico, un ex soldato che non riesce a fermarsi dopo essere stato su alcuni campi di battaglia. In ogni caso, riporta Subašić, sono tutti appartenenti alla cerchia di persone ricche e probabilmente influenti nelle loro comunità, hanno le risorse legali per proteggersi da un'eventuale indagine e anche l'influenza politica per ostacolarla. Quanto all'organizzazione, l'esposto suggerisce che i gruppi erano probabilmente composti da cacciatori, perciò l'organizzazione dei safari è con tutta probabilità da ricercarsi nelle agenzie che organizzavano abitualmente trasferte di cacciatori nelle mete abituali come Ungheria, Croazia, Slovenia, Serbia, Bulgaria o Romania per cacciare grosse prede come cervi e cinghiani. La copertura dell'attività venatoria serviva così per portare, senza sospetti, i gruppi a destinazione a Belgrado e da lì, come da una testimonianza raccolta nel docufilm, le comitive venivano poi portate in elicottero sulle colline che sovrastano Sarajevo, ma anche a Mostar. Francesca Vigori, TGR, Friuli Venezia Giulia. All'insegna della legalità, del salario e della sicurezza, il protocollo ideato unitariamente dai sindacati CGL, CISL e UIL delle Friuli Venezia Giulia per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti degli appalti pubblici. Oggi la presentazione nella sede CGL di Trieste in piazza CISL di Trieste in piazza Dalmazia. Le sigle sindacali unite, e non capita spesso, CGIL, CISL e UIL regionali hanno scritto un protocollo per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti degli appalti pubblici. Il protocollo sarà presentato alla giunta del Friuli Venezia Giulia, che spende 1 miliardo e 600 mila euro per pagare questi servizi in appalto. Lavori soprattutto al femminile, come le dipendenti delle mense, pulizie ospedaliere o negli uffici, il personale amministrativo che riscuota ad esempio il pagamento dei ticket, le operatrici museali. Contratti deboli da tutelare, ma come? Tre le parole chiave: legalità, salario e sicurezza. Il segretario della CGIL FVG Michele Piga ha parlato di trasparenza e contrasto all'illegalità e valorizzazione dei rappresentanti della sicurezza interni alle aziende e creare anche una lista delle aziende virtuose, bloccando la logica attuale che premia le offerte al ribasso a discapito della qualità e dignità del lavoro. Il segretario UIL Matteo Zorn ha parlato di contrasto alla precarietà, creando un sistema che premia le aziende più virtuose e un sistema di lavoro di qualità. Bisogna agganciare, ha detto, gli appalti ai contratti collettivi nazionali più rappresentativi, introducendo clausole sociali, come ad esempio la durata minima degli appalti a 4 anni. Premiare poi lo sviluppo del secondo livello di contrattazione, cioè quelle richieste che i lavoratori possono avanzare all'interno delle singole aziende per migliorare ulteriormente la qualità del lavoro o le retribuzioni. Così si rende più attrattivo il territorio. Nel corso della conferenza stampa ospitata dalla CISL, Alberto Monticco, segretario CISL FVG, ha parlato della sicurezza che va di pari passo con il concetto di trasparenza e dignità del lavoro. Bisogna fare confronti preventivi con il RUP, il responsabile unico di progetto delle stazioni appaltanti, e poi limitare l'uso indiscriminato dei subappalti per garantire lo stesso trattamento a tutti i lavoratori. Partire dall'amministrazione pubblica per dare il buon esempio su come si gestisce il rapporto con le aziende in appalto, privilegiando quelle virtuose. La speranza è che anche i privati, il cui modello produttivo sfrutta il sistema di appalti e subappalti, vedi Fincantieri, seguiranno a ruota. Almeno questo è l'auspicio dei sindacalisti. Trieste, Francesca Terranova, TGR Friuli Venezia Giulia. Ora occupiamoci del progetto della cabinovia Trieste, che è finito sotto la lente della Corte dei Conti per una segnalazione sulla copertura finanziaria prevista a rate. Questa mattina del contestato impianto a fune si è occupata la Commissione Trasparenza del Comune. L'ovo via di Trieste in Commissione Trasparenza del Consiglio Comunale. Obiettivo: far luce sulla clausola sospensiva del capitolato d'appalto per un'opera che finora è costata circa 1,5 milioni di euro. A tanto ammonta il costo tra progettazione, studio di fattibilità e spese per la documentazione ambientale da parte dell'azienda Leitner, vincitrice dell'appalto. Il Comune finora ha già erogato 1,380,000 euro. Va capito come procedere in caso di mancata realizzazione di un'opera che ha visto finora un cambio di finanziamento, non più fondi PNRR ma statali, e la bocciatura da parte del TAR. Comune e Regione, ciascuno per propria competenza, potrebbero decidere di far ricorso. Le carte sono allo studio degli uffici della Regione. In Commissione Trasparenza l'opposizione ha lamentato l'assenza dell'amministrazione politica, ma la presenza dei tecnici comunali, ha detto Riccardo La Terza di Adesso Trieste, ha però chiarito l'applicabilità della clausola sospensiva. Il Comune ha nei fatti la facoltà in qualsiasi momento di scindere il contratto con Leitner senza dover pagare delle penali. Si può uscire in maniera abbastanza pulita da questa vicenda lunghissima, controversa. L'oggetto della commissione, ha fatto sapere l'assessore lavori pubblici Elisa Lodi, è di natura tecnica e non politica. Sulla volontà di andare avanti con l'opera si è espresso Massimo Codarin di Fratelli d'Italia. Le scelte politiche, nel momento in cui vengono attuate, devono essere portate avanti. Quello che a me dispiace sinceramente è il fatto che ci si blocchi, ci si areni o si rallenti quello che è un progetto che secondo me è utile e fondamentale, anzi, per il trasporto pubblico della nostra città. E intanto il progetto è finito anche sotto la lente della Corte dei Conti dopo la segnalazione da parte di Paolo Altin, lista Russo.Franco, che ha posto la questione della copertura finanziaria che potrebbe, dice, profondamente incidere sul bilancio comunale in attesa dei fondi statali. Trieste, Navitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. La cronaca a Pordenone, in corso dall'alba una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato che mira a smantellare una gang attiva nello spaccio di hashish e cocaina. Si tratta di un gruppo di giovani di diverse nazionalità tra i 18 e i 25 anni, per lo più disoccupati e guidati da un cittadino brasiliano di 22 anni già indagato. Per gestire lo spaccio si servivano di rider, cioè dei fattorini che consegnano il cibo. La banda si ispirava a uno stile di vita ricalcato dal mondo della trap, fatto cioè di atteggiamenti spavaldi e violenti, auto di grossa cilindrata, noleggiate tramite prestanome e spesso guidate senza il minimo rispetto per la sicurezza. Le indagini iniziate a giugno hanno documentato centinaia di episodi di cessione di droga e due persone sono state anche arrestate in flagranza di reato. L'operazione ha già portato a una ventina di perquisizioni. L'incidente mortale di ieri sera a Pordenone, dove è deceduta una donna di 75 anni, Giuseppina Cosmo, originaria di Auronzo di Cadore e residente a poca distanza dal luogo dell'incidente. La vittima, secondo gli agenti della polizia locale, sarebbe stata agganciata e trascinata per circa 20 metri. Rintracciato dai vigili urbani, il 32enne alla guida della vettura che l'ha investita ha dichiarato di non essersi accorto di nulla, fermandosi subito dopo in stato di shock. Con l'assenza sulla vettura di segni riconducibili a urti, l'ipotesi degli investigatori è che la donna abbia avuto un malore, che sia caduta a bordo strada prima di essere agganciata dall'auto. Alcuni commercianti hanno segnalato che la zona è scarsamente illuminata. La polizia di Trieste ha proceduto al rimpatrio nel paese d'origine di un cittadino tunisino di 22 anni, irregolarmente presente sul territorio nazionale e già gravato da precedenti espulsioni. Il cittadino tunisino risulta attualmente indagato in numerosi procedimenti penali per i reati di rissa, resistenza a pubblico ufficiale, rapina, furto aggravato, maltrattamenti, minacce e lesioni aggravate, nonché porto di armi e oggetti atti ad offendere. E siamo alla pagina dedicata al tempo. Il cielo è sereno su tutta la regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 15,5 gradi, a Udine, Gorizia, Pordenone 14,5, a Forni di Sopra e Piancavallo 11, a Tolmezzo 10, a Sappada 8, a Tarvisio 7, sul Monte Lussari 8,5 gradi, sul Monte Zoncolan 9, a Grado 14, a Lignano 12 gradi. Le previsioni per oggi vedono cielo da sereno a poco nuvoloso per il passaggio di velature, quota dello zero termico in risalita fino a 2800 metri circa. Ancora polemiche sui trasferimenti dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone. Al centro delle tensioni il trasloco dell'ostetricia, reparto già in sofferenza dopo l'accorpamento dei punti nascita. La data di trasferimento dei primi reparti resta confermata il 29 novembre con l'ingresso delle medicine. L'11 dicembre sarà poi la volta di pronto soccorso, radiologia d'urgenza e medicina d'urgenza. Ma il programma degli spostamenti dal vecchio al nuovo ospedale di Pordenone continua a far discutere. Questa volta al centro delle tensioni è finita l'ostetricia, già in sofferenza a seguito dell'accorpamento dei punti nascita. La direzione generale dell'azienda sanitaria ne prevederebbe il trasloco a febbraio, ma il direttore del dipartimento non intende trasferirla separatamente dalla pediatria. Il tutto potrebbe quindi slittare all'estate. Il direttore generale ASFO, Giuseppe Tonutti. Alla fine di febbraio l'ostetricia sarebbe pronta, non sarà pronta la pediatria. È venuto fuori dal capo dipartimento che non intende fare trasferimento se non vanno assieme. Adesso discuteremo per vedere se effettivamente così sarà. Chiaro, se c'è una puntata di piedi da parte del capo dipartimento, si assume la responsabilità che l'ostetricia va a luglio e noi anticipiamo la rianimazione, che era quella a seguire. Il direttore del dipartimento materno infantile Roberto Dall'Amico aveva spiegato ai nostri microfoni come spostarsi insieme fosse necessario. L'assistenza in sala parto viene garantita dai pediatri neonatologi, che ovviamente devono essere lì, sono gli stessi medici che poi seguono anche la pediatria e il pronto soccorso. La CGIL denuncia una situazione definita insostenibile, con turni di lavoro da 12 ore, dimissioni di ostetriche. Sebastiano Badin di Sinistra Italiana e Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra hanno annunciato un'interrogazione all'assessore Riccardi. Pordenone, Natascia Gargano, TGR, Friuli Venezia Giulia. 60 anni di attività dell'AIRC, che è l'Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro. Essenziale nella lotta ai tumori sono le prevenzioni e l'attività di screening, promossi in particolare questo mese per quanto riguarda le neoplasie che colpiscono gli individui maschili. Era quasi una sentenza inappellabile il cancro 60 anni fa, quando nasceva l'AIRC per restituire una speranza a chi sviluppava questa malattia che allora non si voleva neanche nominare. Guarire oggi è sempre più possibile. Ogni euro donato ad AIRC si trasforma in ricerca medica, la ricerca medica in nuove terapie per i pazienti oncologici. Luigino Dalmaso, direttore dell'epidemiologia oncologica del CRO di Aviano. In Italia vivono quasi 4 milioni di persone dopo una diagnosi di tumore, sono 85.000 nella nostra regione. Più della metà vivono da oltre 10 anni da quando si sono ammalate e molti di questi possono dirsi guariti. Molti tumori nei bambini e nei giovani adulti sono ormai guaribili e hanno percentuali di guarigione molto altissime. Anche i tumori della mammella hanno una probabilità di guarire molto alta ed è il tumore più frequente nelle giovani donne. Novembre è il mese dedicato alla prevenzione dei tumori maschili. I tumori più frequenti negli uomini sono i tumori della prostata, nelle persone più anziane, sono 1.000 casi all'anno nella nostra regione circa, e 50 invece sono i tumori del testicolo, che sono i più frequenti nei giovani uomini. Spesso gli uomini trascurano i sintomi urinari, i problemi alla prostata. Quando hanno familiarità di tumori o comunque quando hanno dei sintomi, vengono incoraggiati a andare in centri di controllo specializzati e fare anche loro, senza nessuna vergogna, senza nessun problema, una verifica del loro stato, sia se sono giovani della situazione riproduttiva, sia se sono più avanti negli anni della situazione dei tumori urologici e prostatici, per eventualmente trattarli e curarli tempestivamente in caso di sintomi. Lorenzo Gerlinzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Crescono di oltre il 13% gli immatricolati del 2025-2026 alle lauree triennali e a ciclo unico dell'Università di Trieste, con 4.441 iscritti contro i 3.920 dello scorso anno. L'Ateneo conferma la sua attrattività crescente. Nel conteggio, oltretutto, non rientrano gli studenti e le studentesse che si sono iscritti al cosiddetto semestre filtro per l'accesso a medicina e ad odontoiatria. Chi di loro non si aggiudicherà uno dei 240 posti disponibili complessivi potranno iscriversi ad altri percorsi affini proposti dall'università. Anche i percorsi per le professioni sanitarie si confermano quasi sold out rispetto alla disponibilità offerta. I corsi triennali o a ciclo unico più numerosi sono fisica, ingegneria industriale, intelligenza artificiale e data analytics, giurisprudenza, scienze internazionali e diplomatiche, scienze politiche e dell'amministrazione, scienze tecniche e psicologiche, discipline storiche e filosofiche, economia internazionale e mercati finanziari e scienze dell'educazione. In particolare il corso di economia e gestione aziendale registra un successo eccezionale con 583 iscritti e un alto tasso di crescita rispetto all'anno scorso. L'Ateneo si conferma rosa con una predominanza di donne nel dato totale di iscritti. Crescono le immatricolazioni al femminile anche nelle lauree STEM, scienza, tecnologia, engineering e matematica, anche grazie alle iniziative di orientamento organizzate nell'ambito del progetto lauree scientifiche. L'Università di Trieste aumenta anche l'attrattività dall'estero, con 875 immatricolati alle sole triennali rispetto ai 700 dell'anno scorso. Le comunità più rappresentate provengono da Iran, Turchia, Pakistan e Tunisia. Il mondo del lavoro e dell'industria, Acciaierie Bertoli SFAU, una divisione del gruppo Danieli, rafforza la propria presenza nel nord Europa con la nuova divisione ABS Steel Nordic. L'attuale sede commerciale sarà affiancata da un nuovo centro di distribuzione dell'acciaio che verrà realizzato nel sud della Svezia, apertura prevista entro la prossima estate. ABS apre un centro logistico in Svezia per distribuire acciaio nei mercati scandinavi. L'attuale sede commerciale, aperta nel 2012, sarà affiancata da un nuovo polo di distribuzione che verrà realizzato a Värnamo, nel sud della Svezia, entro l'estate 2026. Sorgerà su un'area di circa 24.000 metri quadrati. Si tratta di un comune industriale forte, indica Marco Di Giacomo, amministratore e delegato di ABS Acciaierie. Con una posizione centrale strategica e una buona infrastruttura, e per noi rappresenta un mercato di alta qualità. Le barre d'acciaio usciranno dall'ABS di Cargnacco via rotaia, verranno trasportate in treno fino in Svezia e lì arriveranno nel nuovo centro servizi, che farà anche da magazzino. Al suo interno ci saranno macchine per la preparazione e il taglio, robotizzate e automatizzate. La struttura sarà interamente dedicata agli acciai speciali, prodotti laminati a caldo, tondi e quadri, barre o prodotti forgiati di acciaio al carbonio. Una volta preparati saranno consegnati ai clienti, principalmente costruttori nei settori automotive, meccanico o dell'energia. L'obiettivo per ABS, che già produce acciaio da rottame per oltre il 95% delle materie prime, è rafforzare la presenza nel nord Europa, mercato più attento alla sostenibilità e all'innovazione. Il nuovo polo servirà anche a garantire lotti di produzione su volumi contenuti, ma che richiedono standard qualitativi elevati, tracciabilità e rapidità di consegna. Il mercato svedese rappresenta oggi circa il 10% del volume complessivo distribuito in Europa da ABS, se si esclude l'Italia. Un simile centro logistico è già attivo nel bresciano. Udine, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia. A Gorizia il comune ha approvato il progetto dei lavori di manutenzione straordinaria di Via Brigata Toscana e Via Brigata Abruzzi. Un intervento che costerà 400.000 euro che saranno coperti da Cassa Depositi e Prestiti. L'obiettivo è aumentare la sicurezza per pedoni e ciclisti, oltre che abbattere le barriere architettoniche e migliorare l'illuminazione pubblica. I lavori riguardano il primo tratto di Via Brigata Toscana, compreso tra Via Antonini e Via Brigata Abruzzi, e il primo tratto di Via Brigata Abruzzi, compreso tra Via Palladio e Via Brigata Toscana. Al momento si trovano in condizioni degradate, privi di marciapiedi e di stalli di sosta definiti. Da Venezia a Trieste, la contestata direttrice d'orchestra Beatrice Venezzi, che dall'anno prossimo sarà direttrice musicale della Fenice di Venezia, potrebbe essere spostata con un accordo politico al Verdi di Trieste. Con lei, forse, anche il sovrintendente Nicola Colabianchi. E quanto affiora da un articolo pubblicato sulla Stampa, come scrive l'autore, che nell'articolo raccontava il corteo protesta dei musicisti contro la nomina, la soluzione e le trattative per il momento sarebbero soltanto una voce. Il Teatro Verdi a Trieste è privo da quasi 5 mesi di un sovrintendente. Parliamo di musica da camera. L'associazione Chamber Music di Trieste festeggia 30 anni di attività dedicata a promuovere i piccoli complessi di esecutori con il concorso Trio di Trieste e con le sue stagioni musicali. Ne abbiamo parlato con la fondatrice e direttrice artistica Fedra Florit. Chamber Music è nata dopo che io avevo scritto questa monografia sul Trio di Trieste. Io sono stata allieva del Trio di Trieste, in particolare del pianista Dario De Rosa. Il Trio di Trieste e il Quartetto Italiano sono stati due fari, due punti interpretativi per la musica da camera straordinari. 30 anni fa le radici. Oggi la Chamber Music organizza ogni 2 anni il Premio Trio, una delle 5 competizioni più importanti del mondo per giovani talenti della musica da camera. Dare il primo premio non è un problema da niente, cioè innanzitutto deve essere un complesso, certo, che segue la partitura, il fraseggio, i colori, la fusione d'assieme, tanti elementi musicali, ma anche deve avere la capacità di salire su tutti i palcoscenici, perché noi fin dall'inizio, io in particolare, mi sono preoccupata che il primo premio avesse accanto al premio in denaro anche dei concerti pagati in maniera calmierata, però concerti in Italia. A Trieste sono passate più di 700 formazioni di giovani, dal duo al quartetto. Ci sono giovani che vengono dall'est, ma poi finisce che si perfezionano in gran parte in Germania. E negli ultimi tempi c'è una maggior presenza di italiani, perché gli italiani si stanno mettendo un poco più in gioco. Oggi sono più che mai bravissimi. Ed è tutto per questa edizione. In redazione ha collaborato Daniela Sossi, per la parte tecnica in regia Bruno Montevecchi e Roberto Cavallari. Da parte di Dario Ronzoni e di Elisabetta Zaccolo, grazie per l'attenzione e l'augurio di un buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.